ora voglio scrivere a matita per non lasciare qualcosa di indelebile che col tempo rimane invariata, che col tempo rimane così com'è. Voglio scrivere qualcosa che si possa cancellare, che si possa riacconciare a seconda del momento. Nella mia mente solo scuse, se il mio passato non è stato solo rose, con una gomma poter cancellare tutte quelle cose da dimenticare e avere un foglio bianco e una matita per riscrivere questa mia vita, per riscrivere questa mia vita. Matita, per non lasciare solo graffi, ma aggiustarli e modellarli, devastarli e poi bruciarli. Qualcosa che si ferma, lasciare andare la mia mano sopra il mare, finire il viaggio che ho voluto incominciare. Voglio scrivere a matita perché trema la mia mano, che se poi si fermerà